Essere e benessere di Nicoletta Carbone. Capito? Ma se me lo dicevi prima. Come prima? Ma sì, se me lo dicevi prima. Prima quando? Ma prima no? Prima si prendono i contatti, facciamo magari una telefonata. E io ve lo dico prima, con un giorno d'anticipo, in modo che possiate organizzarvi e scegliere se aderire, fare finta di nulla, rimandare. Insomma, domani è la giornata mondiale senza tabacco, 24 ore che suonano come un invito per chi fuma a non fumare, per chi ha smesso a raccontare, per chi ci ha provato e ci è ricaduto a riprovarci. Un giorno solo, forse poco, ma un giorno solo, con l'augurio che diventi il primo di tanti giorni liberi dal tabacco. Ma per adesso invitiamoci a capire se e quanto ci costerebbe non accendere una sigaretta domani, se ci sentiamo pronti, moderatamente pronti per affrontare questa sfida, oppure se diciamo ma chi me lo fa fare, tanto cosa serve. Provate a rispondere e chiamatemi in diretta 800 24 00 24. Potete come sempre seguirci su Facebook e su Twitter. Qui in studio con me il dottor Roberto Boffi, responsabile della pneumologia dell'Istituto Nazionale dei Tumori di Milano. Buongiorno. Buongiorno Nicoletta. Dottor Boffi, potremmo usare la giornata mondiale senza tabacco come una sorta di test per valutare il nostro rapporto con le bionde. Lei che dice? Beh, dico che mi sembrerebbe la giornata ideale per porsi il problema, in quanto l'Organizzazione Mondiale della Sanità da molti anni ha deciso di dedicare il 31 maggio a tutti i tentativi che si possano fare per cercare di fronteggiare questa vera e propria epidemia, quindi per aiutare i fumatori a smettere di fumare, gli ex fumatori a non ricominciare e a chi sta vicino ai fumatori a trovare i modi migliori, i metodi, le strategie più utili per aiutare le persone che fumano a sconfiggere questa vera e propria dipendenza. E anche un po' a difendersi, perché come lei sì, e come l'Istituto dei Tumori hanno tante volte sottolineato, il fumo passivo. Sì, senza criminalizzarli, i fumatori inquinano, perché è il fumo naturalmente di tabacco che inquina. Qualunque fumo, per la verità, mm-hmm, inquina, non solo anche quello, anche quello della anche quello dei motori, certo. Però noi da anni, come lei sa, facciamo esperimenti in diretta, li facciamo vedere in TV, ne parliamo in radio, poi pubblichiamo su riviste scientifiche, confrontando il fumo di tabacco, le polveri sottili, il famigerato PM10 delle sigarette, con quello di altri fonti inquinanti come i motorini o le macchine. Abbiamo sempre trovato che la sigaretta inquina più di qualunque altra cosa. Ecco, ci faccia capire, avete fatto dei confronti negli anni scorsi di cui abbiamo parlato, sì, ma sigaretta verso? Sigaretta verso scooter, sigaretta verso moto di grossa cilindrata, sigaretta verso spider, in ambienti chiusi. Avevamo cominciato con le cabine, con l'abitacolo di un'autovettura, e negli ultimi anni ci siamo spostati all'aperto, quindi nei parchi, negli stadi, e quest'anno la nostra, diciamo, i nostri interventi, i nostri esperimenti, non per criminalizzare i fumatori ma per informarli, si svolgeranno nelle spiagge. Di questo parlerete domani in occasione di un incontro che ci sarà proprio all'Istituto Nazionale dei Tumori, dove, che, come d'abitudine, sì, sì, in un cortile simuleremo con un ombrellone, due sdraio, una fumatrice, una non fumatrice, magari in pareo, non lo so, dipende dal tempo, perché è una primavera un po' particolare quest'anno, vedremo i picchi di concentrazioni di polveri sottili raggiunte con una sigaretta e stando vicino a una persona che fuma, come può succedere in qualunque spiaggia. Questa è un'iniziativa dell'Istituto Nazionale dei Tumori. Ricordiamo che scendono in campo la Fondazione Veronesi, la LILT, i centri antifumo. Insomma, basta andare su Google, digitare giornata mondiale senza tabacco e trovate delle iniziative a cui aderire, sì, sì, proprio porta a porta, direi. C'è un'altra a cui aderiamo anche noi, che sono dei centri antifumo sui treni. È tutta settimana che lo facciamo. Un mio collega domani si scarrozza tutta la giornata con la freccia rossa e facciamo smoking cessation anche sui treni. Non vogliamo dimenticare nessuno, ma sottolineare che c'è una rete proprio a sostegno di chi volesse fare il grande passo o chi l'ha fatto e cerca di avere degli aiuti, dei supporti. Certo, per... i centri antifumo non sono molti, ma aumentano di anno in anno. Insomma, la cosa fondamentale è capire che smettere sarebbe un'ottima idea e ci farebbe molto bene. Non è mai troppo tardi per smettere di fumare. Lo sostiene Prabhat Jha, epidemiologo dell'Università di Toronto in Canada. Secondo un suo recente studio clinico pubblicato sul New England Journal of Medicine, mandare in pensione le sigarette prima dei 40 anni neutralizza tutti gli effetti accumulati negli anni di intensa attività tabagista. In sostanza, secondo i ricercatori che hanno esaminato abitudini e stato di salute di 200.000 americani, non bisogna arrendersi, perché anche quando si pensa che il vizio faccia ormai parte della nostra esistenza quotidiana, anche dopo anni di brutte compagnie, si può livellare lo svantaggio accumulato rispetto a chi non ha mai fatto un tiro. Basti pensare che se si chiude con il passato entro la soglia dei 44 anni, si recuperano fino a 10 anni di vita. Ma anche più tardi è sempre un bel guadagno. Insomma, chi smette ci guadagna, lo sappiamo tutti, ma ogni fumatore si chiede: ce la farò? Sulla pagina di Facebook vi abbiamo messo un questionario di autovalutazione che abbiamo tratto dal libro del dottor Boffi di Donatella Barros, che si intitola Spegnila. Tra l'altro il testo che avete appena ascoltato l'abbiamo invece tratto da un libro di cui parleremo nel corso della trasmissione, scritto da un collega di Salute 24, si chiama Cosimo Colasanto e si intitola Come smettere di fumare con la sigaretta elettronica. Lo sentiremo tra poco. Dottor Boffi, abbiamo messo insieme questo questionario di autovalutazione perché l'obiettivo è di capire se sulla voglia di fumare pesano più gli stimoli esterni o quelli interni. Lo trovano su Facebook. Sì. Le domande relative agli stimoli esterni ci sarebbe piaciuto colorarle, ma non ce l'abbiamo fatto, allora le abbiamo messe in maiuscolo, quelle relative agli stimoli interni in minuscolo. Una prima valutazione che salta agli occhi, lo dico agli ascoltatori che hanno compilato questo questionario di autovalutazione, è se avete risposto sì più alle domande in maiuscolo o a quelle in minuscolo. Potete chiamarci per confrontarvi, per raccontare a quale punteggio avete ottenuto, 800 24 00 24, ma per confronti più personalizzati dovete aspettare oggi pomeriggio, subito dopo la trasmissione, perché il dottor Boffi ci ha promesso che, come ai vecchi tempi, diciamocelo, dottor Boffi, che il nostro facciamo reality. Noi tempi, anni fa avevamo iniziato con il reality con il forum. Insomma, era stato bello. Quindi ritorna a grande richiesta il dottor Boffi. Dottor Boffi, per chi invece ci sta ascoltando, vogliamo dare qualche indicazione per capire se pesano di più gli stimoli esterni o quelli interni? Beh sì, perché il fumatore, come tutte le persone, come tutti noi, non vive su un'isola deserta, no? A parte che magari, non so se vi ricordate quel film Castaway, uno anche da solo ha bisogno di inventarsi una compagnia, lui chiamava il protagonista, Tom Hanks chiamava Wilson il pallone, quindi potrebbe anche fumare con un pallone, un fumatore che non riesce a smettere da solo. Però questo questionario, che è validato, cerca di far capire se noi fumiamo più a causa nostra o di ciò che ci sta attorno, e quindi se questa sfida, questa battaglia per smettere di fumare, se necessita più di un miglioramento interiore oppure se in quello che ci circonda, il nostro modo, naturalmente non migliorare tanto le persone attorno a noi, ma il nostro modo di rapportarsi con loro. E ci sono quindi 15 domande, le principali però sono quelle tipo: per quanto riguarda gli stimoli interiori, se fumo di più quando sono nervoso oppure quando penso a come risolvere un problema difficile, no? Come fanno molti professionisti, oppure nei momenti di relax. Allora, queste sono le persone che devono più trovare una motivazione interna per migliorare la loro scelta di smettere di fumare. Quando invece mi sento dire da dei fumatori che smettono soprattutto quando sono in compagnia di fumatori, magari nelle pause di lavoro, oppure quando bevono un caffè, oppure dopo un pasto, allora lì bisogna maturare delle strategie comportamentali per rifiutare la sigaretta un po' anche agli altri. Quindi diteci quali delle due fattori, no? Sì. Pesano di più. Intanto il dottor Boffi può darvi già alcune indicazioni, perché capire da che cosa siamo più condizionati può essere utile per trovare anche la strada più giusta per smettere. Cogliere il momento giusto. Che è un percorso giusto. Smettere di fumare. Ci sono approcci che sembrano essere più efficaci di altri, dottor Boffi, anche se come sempre conta la storia personale. Sì, c'è chi smette dall'oggi al domani, chi smette con un libro, molti me lo stanno scrivendo, però... chi smette mette perché è costretto, perché magari no, il medico però è più facile ricadere se non è una scelta profonda interiore. Comunque sono stato anche settimana scorsa al congresso americano di pneumologia, ha parlato la dottoressa Nancy Rigotti di Harvard, ha fatto un sunto dello stato dell'arte e ha ricordato che il metodo attualmente che ha sicuramente più possibilità di successo è quello cosiddetto integrato, farmaco e psicologico, quindi assieme un supporto psicologico personale o anche telefonico con dei farmaci antifumo. Paola da Roma, Antonio da Reggio Emilia, buongiorno a tutte e due, 800 24 00 24 per chi vuole intervenire. Intanto voglio leggervi anche, intanto che Paola si prepara. Buongiorno Paola. Sì, buongiorno. Un messaggio di Armando: non ho mai aderito a queste iniziative spot, mi infastidivano, poi un giorno l'ho fatto, un giorno dopo mesi di autolavaggio del cervello, 18 mesi fa, non per gli altri, non per l'esempio, non per la salute, non per i soldi, solo per me, ho cominciato a non fumare. Armando, e noi gli leggiamo questo messaggio perché insieme ad altri che leggeremo nel corso della trasmissione raccontano che qualche cosa nella nostra vita tra noi e la bionda può capitare improvvisamente, anche se sentiamo che di lei non ne possiamo fare a meno, oppure che ci piace, come molti mi scrivono, mi tengo 3 sigarette al giorno e me le godo, oppure c'è chi mi dice 8, un ascoltatore mi dice toglietemi il toscano e fumo un toscano al giorno, levatemelo e mi suicido, ma poi qualche cosa può capitare. Paola, buongiorno. Buongiorno di nuovo. Eccola. Ci racconti? Sì, io volevo dire, ho iniziato a fumare a 14 anni per gioco, come tutti, si inizia per... Sì, poi diciamo ho continuato e ho iniziato a fumare seriamente, quindi parlo di un pacchetto ogni 2 giorni, per me è abbastanza serio, quando in compagnia anche un pacchetto al giorno, proprio per ricordare quello che dicevate prima. Poi ad un certo punto ho smesso perché aspettavo mio figlio e quindi appena ho saputo questa cosa in gravidanza ho smesso immediatamente. Ho ripreso a fumare quando mio figlio aveva circa 2 anni e in ufficio e la sera a casa ogni tanto. Sì. Poi ad un certo punto è arrivato anche insomma il mio nipotino a casa con noi e io ho cominciato a stare a casa con loro di più e mi accorgevo che loro vicino a me, io fumavo, e loro vicino a me quando li accarezzavo, li baciavo, erano intrisi praticamente di fumo. E a un certo punto ho detto basta, perché mi ha dato fastidio il fatto che loro patissero comunque una scelta stupida, scusate, non voglio offendere nessuno, ma perché la sigaretta secondo me è consolatoria, quindi diciamo che questa scelta è maturata 1 anno e 3 mesi fa, non ho più fumato e non ho avuto neanche più l'esigenza, è coincisa con una maturazione personale, quando non ho avuto più bisogno della sigaretta consolatoria, diciamo, ecco. Grazie Paola, vedi, il dottor Boffi gongolava, vedi, perché lui, poi loro hanno fatto proprio una prova, che un test, il fumatore inquina fino a tot minuti dopo, anche quando se va a fumare in balcone. Due o tre minuti prima di ripulirsi i polmoni. Antonio da Reggio Emilia, buongiorno. Buongiorno a voi, complimenti, fate le trasmissioni bellissime. Ma Antonio, ecco. Grazie. No, veramente, c'è un po' di cultura ogni tanto, si sente. Ecco, volevo citare la mia esperienza. Io sono un fumatore di quelli, ero un fumatore di quelli veramente accanito, perché pur fumando, facendomi sulle sigarettine lì col tabacco, eccetera, eccetera, eccetera, mi sono accorto a un certo punto che, insomma, mi arrivavo di fianco, o roba del genere, sembrava un gatto che faceva le fusa. Uno si sente proprio... i polmoni, i bronchi invasi da sta robaccia qui, cioè in pratica mi sono rotto le scatole. Ha detto basta. Avevo già acquistato tempo prima la sigarettina elettronica. Poi a un certo punto ho detto vabbè, adesso mi metto a fumare solo questo. L'ho fatto, io essendo chimico mi faccio poi anche i preparati, insomma, che sono poi semplicissimi da metterci dentro, e sto bene, sto meglio, è da ottobre che praticamente non ho più toccato una sigaretta, ma senza, direi, non è che mi sia privato di niente, anzi, proprio vedo la gente che fuma, anzi, no. Come pensavo prima, mi ha sempre dato fastidio anche l'odore del fumo, non fumavo mai in posti chiusi, se c'avevo una maglietta che puzzava di fumo, mi sembrava proprio schifo, c'erano tra i più brutti odori che si possa esistere. Adesso? questo, finché sono in linea, io mi chiedo perché ci siano, e spero che, non so, se, almeno spero di essere da parte della ragione, perché non si fa un po' più, cioè perché c'è questa sorta di lobby del tabacco che contro, non dico le sigarette elettroniche di una marca o di due, ma contro questo sistema, perché si deve sentire della gente che dice ma fanno male. Perché lei ha sentito, cioè ha avuto questa impressione che nel messaggio della, dietro la sigaretta elettronica ci fosse questa cosa, le sigarette elettroniche fanno male. Ma abbiamo qua il dottor Boffi e in linea anche Cosimo Colasanto, come smettere di fumare con la sigaretta elettronica, un libro di che vi ho citato prima e di cui parleremo nel corso della trasmissione. Cosimo, ciao. Buongiorno Nicoletta, allora, buongiorno anche agli ascoltatori. Allora, dottor Boffi, viene da dire come risposta? Prima, perché le multinazionali del tabacco sono contrarie alle sigarette elettroniche? Perché chiaramente hanno invaso il loro mercato. Peraltro una grossa Big Tobacco ha comprato anche una marca di sigarette elettroniche, per cui a volte con alcune cercheranno probabilmente in futuro di allearsi. Io non sono contro le sigarette elettroniche, come Istituto Nazionale dei Tumori noi non le possiamo prescrivere perché non sono ancora tuttora di provata efficacia né innocuità, le stiamo studiando con un protocollo serio di ricerca e predichiamo il sacrosanto principio di precauzione, e assolutamente però non criminalizzandole. Cosimo. Allora, il tuo libro è, io l'ho letto con grande piacere e sono contenta che sia di aver avuto occasione di averti qua oggi, perché nel tuo libro ci sono tante indicazioni, rigore scientifico, gli studi che sono stati fatti, che cosa dice la comunità scientifica, ma anche molte curiosità. A proposito, Cosimo, hai sentito la risposta del dottor Boffi? Tu che la sigaretta elettronica la conosci, l'hai studiata, ne hai visto anche tutto il vissuto di molti fumatori elettronici, che cosa puoi aggiungere? Certo, da questo punto di vista ha ragione il professor Boffi, è ancora presto per dire quali sono gli effetti della sigaretta elettronica, è ancora presto per dire se può essere un mezzo per aiutare a smettere di fumare. Diciamo che però ci sono tantissimi studi in corso, moltissimi sono quelli italiani. Per il momento una cosa la possiamo dire, i 400.000 e passa convertiti allo svapo digitale stanno inquinando meno i propri polmoni. Questo lo dice uno dei primi studi condotto nel 2010 da Michael Siegel del Boston University, che oltre a dire c'è bisogno appunto di nuove ricerche, di approfondimenti, sostiene che il livello di agenti potenzialmente cancerogeni individuati nelle sigarette elettroniche è comunque fino a 1000 volte inferiore alle sigarette normali. Quindi dice Siegel, noi oggi sappiamo molto di più su ciò che c'è all'interno delle sigarette elettroniche di quello che c'è nelle sigarette normali. Però ovviamente gli studi vanno condotti, vanno fatti ulteriori approfondimenti. E di sigaretta elettronica naturalmente parleremo, arrivano tanti messaggi e tanti fumatori si chiedono, sto usando l'una e l'altra ma riuscirò a spegnere la bionda a favore della sigaretta elettronica, insomma riusciremo a smettere proprio utilizzando un po' come passaggio, no? La sigaretta elettronica, o invece ci convertiremo alla sigaretta? Io penso che dopo questo grande boom che c'è stato negli ultimi mesi ci sarà una naturale inevitabile selezione, le marche migliore, quelle che accetteranno di più di mettersi in gioco anche in termini di ricerca con istituti scientifici come il nostro, rimarranno e potranno essere, magari spero in futuro, registrati come prodotti farmaceutici. Il dottor Boffi dice un boom, infatti tu Cosimo nel tuo libro riporti proprio dei dati, sono sulla bocca di tutte le sigarette elettroniche, anche di chi non fuma, sono diventate di gran moda. Sì, sono sulla bocca di tutti in tutti i sensi. E quindi per capire ad esempio come cresce l'interesse per questo mondo basta seguire anche il trend su Google, ormai è una cartina di tornasole. Fino a 2 mesi fa, quando ho terminato di scrivere il libro, le pagine sul web che parlavano, citavano la sigaretta elettronica, quindi soltanto quelle in italiano, erano circa 2 milioni. Adesso ho fatto un controllo proprio ieri, sono 2 milioni e 600 mila, quindi è una crescita straordinaria. Ma oltre alla sigaretta elettronica, un aiuto arriva anche dalla rete. Con il sito www.exsmoker.eu è un'iniziativa della Commissione Europea che è giunta al suo terzo anno di vita. Abbiamo raggiunto al telefono la dottoressa Paola Testori Coggi, che è direttore generale Salute e Consumatori della Commissione Europea. È una campagna che è indirizzata ai fumatori e soprattutto ai fumatori giovani per fargli capire quali sono i vantaggi di smettere di fumare, i vantaggi in termini di salute, benessere, estetica, economici anche, perché se uno non spende nelle sigarette può spendere in altri divertimenti. E gli strumenti di questa campagna sono stati eventi, abbiamo associato a molti eventi sportivi, ma soprattutto abbiamo usato i nuovi strumenti digitali, quindi c'è una piattaforma online, di cui lei ha citato l'indirizzo online, che aiuta i fumatori a smettere. Anche chi non vuole smettere può registrarsi, e con questo programma viene accompagnato e viene consigliato per smettere di fumare, e abbiamo un grande successo, perché pensate che in Europa oggi ci sono quasi 400.000 persone, cioè fumatori, che si sono registrati, di cui circa un terzo dopo 3 mesi ha smesso di fumare. In Italia i fumatori registrati sono 23.000, ecco, in Italia c'è un tasso di successo un po' più basso, perché sono soltanto il 22% dei fumatori registrati che hanno smesso. Allora facciamo un appello, dottoressa Coggi, facciamo un appello da una trasmissione che si occupa quotidianamente di salute e di prevenzione. Visitate il sito, avete degli amici, degli strumenti che vi possono accompagnare in questo passo, che è difficile soprattutto sostenere, dottoressa Coggi, perché questa è un po' la differenza, avere un supporto che ci accompagna in questo percorso che è pieno di insidie, perché si può decidere di smettere di fumare, ma è anche facile ricadere, quindi tornare a fumare. Dottoressa Coggi, che dice? Certo, perché ricordiamoci che il fumo non è una scelta, il fumo è una dipendenza, quindi chi fuma è dipendente dalla sigaretta, è dipendente dal tabacco, e quindi non è una scelta, ed è per quello che deve essere, come ha detto lei, deve essere aiutato e accompagnato. E soprattutto pensate in termini di salute, di vostro benessere, quanto ci guadagnate a smettere di fumare. E i giovani devono pensare in termini di vita futura, perché oggi in realtà il 70% delle persone cominciano a fumare prima di 18 anni, quindi è veramente i giovani che devono smettere, i giovani che hanno cominciato devono smettere o non devono cominciare a fumare. Essere e benessere. Hai capito? Sei contento? Papà ti dice questo per insegnarti a vivere, per svegliarti, per levarti i complessi, perché queste qui, vedi, sono tutte disponibili, ci stanno tutte, ma bisogna saperle colpire. Colpisco che colpisco? E col bastone. Le colpisci con la personalità, con lo sciarpe. Però papà, devi essere disinvolto, non sta sempre che hai mani dietro, sembri in gobbo, sta su. Vabbè, ma dove metto ste mani? E mo te lo dico io dove le metti. Ecco, vedi, ti metti una mano in saccoccia e con l'altra tieni fra le dita una sigaretta. Insisti del costo veleno, sa? Questi sono 40 secondi e vita in meno, costo veleno. Non me ne frega niente, è una scelta che ha fatto papà. La gestualità, dottor Boffi, è importante per il è uno degli aspetti, una parte del piacere di fumare, uno, no? Degli aspetti sì che cerco di combattere, naturalmente, e lui cerca di combattere. Cosimo, in effetti la sigaretta elettronica permette al fumatore di mantenere questo, il piacere della gestualità. Sì, perché il piacere della gestualità, molti studi lo indicano come uno degli effetti e delle componenti più importanti anche della dipendenza, e la sigaretta elettronica aiuta a conservare questa componente. Ovviamente è anche uno dei metodi che vengono utilizzati da un certo punto di vista per smettere, perché si può utilizzare la sigaretta elettronica anche senza l'emissione del vapore, del famoso vapore della nicotina, soltanto certo, tenendola in bocca. Senti, un tweet mi dice perché elettronica, e molti mi dicono ma chi l'ha inventata? Arrivano tutte dalla Cina? Nel tuo libro si trovano delle risposte, Cosimo, ma io le so perché le ho lette, ma tu le hai scritte. Sì, allora, elettronica in realtà le componenti della sigaretta elettronica sono più meccaniche ed elettriche, poi in realtà adesso si stanno facendo strada anche alcune componenti sofisticate da un punto di vista dell'elettronica, ad esempio ci sono dei chip che consentono di tenere sotto controllo il numero dei tiri oppure anche persino il voltaggio della batteria per modulare la forza della svapata. Sì, quindi elettronica è sicuramente una parola che attrae, una parola suggestiva, e riguardo invece alla storia della sigaretta elettronica, diciamo che la sigaretta elettronica è stata inventata in Cina, diciamo tra il 2002 e il 2003, da brevettarla è stato questo leggendario farmacista di nome Ulrich, che è un po' lo Steve Jobs della sigaretta elettronica, diciamo, è anche avvolta la sua figura dalla leggenda. Per molti consumatori, le sigarette, la maggior parte delle sigarette in effetti proviene dalla Cina, per molti consumatori la provenienza delle sigarette, anche dei liquidi, è molto importante, perché la paura è sempre quella che dall'estero possano arrivare prodotti non sicuri oppure poco controllati, sì, di scarsa qualità. In effetti bisogna stare attenti anche alle etichette, tuttavia le cose si stanno muovendo velocemente, ad esempio in Inghilterra si sta progettando una sigaretta di seconda generazione, in Italia Italepo presenterà presto una sigaretta completamente made in Italy, quindi prodotta e assemblata tutta nel nostro paese, quindi garanzia di sicurezza. Certo. Senti, ma Cosimo, prima di salutarti, noi smetteremo di fumare secondo te grazie alla sigaretta elettronica? Poi sentiamo il parere del dottor Boffi. Nel tuo libro suggerisci qualche trucchetto. Sì, metodi diciamo ufficiali, studi scientifici definitivi su questo argomento non ce ne sono. C'è qualche trucchetto, qualche decalogo fai da te, diciamo catturato in rete, un po' empirico. Ad esempio molti svapatori continuano a fumare anche le bionde, ma sempre un trucchetto potrebbe essere quello di cominciare a dimenticare il pacchetto delle vecchie sigarette, le catramose le chiamano a casa, e mettere nel salvadanaio gli euro risparmiati ogni mese, e poi diciamo il risparmio economico a fine mese potrebbe essere un incentivo a smettere definitivamente con le sigarette normali. Poi ci si potrebbe cominciare a dimenticare la batteria delle SIG oppure il caricabatterie, il cavetto USB a casa, e quindi utilizzare appunto la sigaretta elettronica spenta per mantenere la gestualità del fumare, e sperando che a un certo punto il disgusto e l'odore della sigaretta diventi un ostacolo, si comincia a riassaporare anche i cibi e va via il fiato corto, e questo potrebbe essere il momento in cui si dice definitivamente addio alla sigaretta. Grazie a Cosimo Colasanto che è stato con noi. Ricordo il titolo del suo libro, che mi state già chiedendo in molti, come smettere di fumare con la sigaretta elettronica. Grazie Cosimo, alla prossima. Grazie. Ricordo anche il sito della Commissione Europea per la campagna, che mi state chiedendo anche questo, www.exsmokers.eu. Dottor Boffi. Sì, bene, sulla sigaretta elettronica due cose veloci, vorrei dire che quello che stiamo facendo noi all'Istituto dei Tumori, due ricerche secondo me molto importanti, nell'attesa che l'Istituto Superiore di Sanità ci dia delle norme precise sulla possibile prescrittibilità. Due ricerche, una sulla nube elettronica, cioè su quanto la sigaretta elettronica possa lo stesso inquinare, anche se sicuramente meno rispetto a una sigaretta normale, e quindi quanto possa essere utilizzata anche negli ambienti confinati. E l'altra sulla farmacogenetica, cioè noi già da anni, ne ho già parlato in trasmissione altre volte, stiamo studiando la componente genetica, la predisposizione a far fatica a smettere di fumare e a ricadere con i normali trattamenti antifumo, e la stessa cosa stiamo studiando quanto la genetica, i recettori a nicotina cerebrali possano interferire anche o meno sullo smettere di fumare con le sigarette elettroniche. Dottor Boffi, ci sono già dei dati? Può già anticiparci qualche cosa? Beh, per quanto riguarda l'ambiente, quella che stiamo studiando noi, non faccio pubblicità, però come diceva l'autore del libro, direi italiano è meglio, anche come si mettono sulle magliette, no? Non per essere assolutamente autarchici, però insomma stiamo studiando un'ottima sigaretta italiana, e la sensazione è che inquini molto poco. Per quanto riguarda la genetica, c'è una correlazione tra la genetica e la nostra capacità di smettere di fumare con minore difficoltà, ma la base rimane sempre naturalmente la nostra convinzione, la nostra motivazione, come dicevo prima, più o meno influenzata dagli stimoli esterni. Dottor Boffi, ci sono anche all'Istituto dei Tumori, avete anche valutato l'efficacia di rimedi fitoterapici, certo. Quindi possiamo dire preparati a base di erbe che possono aiutare a smettere di fumare. Come funzionano e sì. Per chi sono indicati? Ecco, per primi posso dirlo con orgoglio, abbiamo fatto uno studio approvato dal nostro comitato etico su un fito complesso in assoluto all'Istituto Nazionale dei Tumori a base di pericum più passiflora valeriana, e la stessa cosa adesso la stiamo riproponendo con un dosaggio superiore. È chiaro che è adatto, sono prodotti per smettere di fumare adatti a persone più con una dipendenza psicologica, emotiva e meno diciamo veramente fisica, ecco, non sono le persone che si svegliano di notte perché hanno voglia di fumare. Però perché l'ipericum, la passiflora e la valeriana, perché il comitato etico ci ha approvato questo protocollo? Perché c'è un razionale, perché l'ipericum è un antidepressivo e la depressione è uno dei sintomi possibili della sindrome di astinenza, la passiflora è un ansiolitico, la valeriana aiuta per combattere l'insonnia, per cui assumere un prodotto a base di erbe, e ci sono molte persone, soprattutto donne devo dire, che amano di più i rimedi naturali che i farmaci chimici, può essere utile per un paio di mesi per stare meno male quando si smette di fumare. Prima di dare la linea alle informazioni sul traffico, voglio salutare Paolo Alessandrini, fondatore di un forum di cui voglio parlarvi. Paolo? Buongiorno. Buongiorno. Buongiorno. Stia lì un attimo, Paolo. Dottor Boffi, noi abbiamo fatto il questionario di autovalutazione. Sì. Sei più condizionato dall'ambiente esterno o dai fattori interiori? Questo rimedio fitoterapico, per chi ha compilato il forum, il questionario, va meglio per chi è condizionato dall'ambiente o per chi fuma per... Dai suoi problemi, dalle sue emozioni, dalle sue emotività. Eccola qua, un'altra indicazione in più. Essere e benessere. Avevamo premura di ritornare perché oggi abbiamo tante cose da dirvi, e intanto voglio risalutare Paolo Alessandrini, fondatore di un forum gestito dagli stessi fumatori, un forum che dicono funzioni molto bene. Paolo. Ciao, buongiorno Nicoletta, dottor Boffi. Buongiorno. Allora, buongiorno. Innanzitutto c'è un sito, no? Sì, un sito che l'indirizzo può essere www.smettere-di-fumare.it, dove con trattino intendo il segno meno. Sì. Questo è il sito che vuol dire anche meno sigarette, meno voglia. Specialmente, soprattutto. Ma nello stesso tempo c'è più aiuto, molto aiuto che arriva dagli ex fumatori o da chi vuole smettere? Esatto, corretto. È un forum frequentato assolutamente, quasi completamente da chi sta cercando di smettere, con il supporto di chi con l'aiuto del forum ha già smesso. L'esigenza principale è quella di, per chi sta provando a smettere, è quella di parlarne, di confrontarsi, di farsi aiutare, e chi meglio di chi è nelle nostre condizioni, diciamo, può capire e supportarci. Il forum è questo, un confronto aperto con chi e sta soprattutto Paolo, io penso che la forza sia il confronto e poi l'atteggiamento non giudicante. Sì, ma siamo tutti nelle stesse condizioni, quindi se io giudico la tua, automaticamente sto giudicando anche la mia, e quindi può essere solo costruttivo il confronto e l'eventuale giudizio. Ecco, ci tenevo a segnalare il vostro forum alle ascoltatrici e agli ascoltatori di Essere Benessere. Paolo, grazie, buon lavoro. Grazie a voi, arrivederci. Federica, buongiorno da Latina, benvenuta. Buongiorno. Buongiorno. Io volevo dare la mia esperienza, perché io ero quella che si potrebbe definire una social smoker, che ho smesso di fumare perché sono andata in Inghilterra e poi comunque le dipendenze non mi piacciono. Sì. E invece il mio compagno è un fumatore serio e diciamo che sta risolvendo con l'agopuntura. Sì. Voi che ne pensate? Cioè, nel senso, è un rimedio vero o è una cosa più che altro psicologica? Tutto quello che fa bene funziona, no? Per lo smettere. Dottor Boffi, ma è lei il dottor? No, beh, intanto complimenti se ha smesso di fumare il suo compagno. Noi non la utilizziamo perché non è di provata efficacia. Di provata efficacia significa che ha una capacità di far smettere di fumare in maniera statisticamente significativa. Con questo forse gli studi che sono stati fatti finora sull'agopuntura, sull'auricoloterapia, hanno raccolto tutto, hanno una casistica troppo ampia e non sono riusciti a selezionare bene i fumatori. Ecco perché noi ci stiamo concentrando così tanto anche sulla genetica, per cercare di personalizzare meglio la diagnosi. Può darsi che in futuro riusciremo a capire meglio a chi magari può essere utile anche l'agopuntura. Allora, arrivano molte telefonate, come ieri, lo stiamo facendo, stiamo avventurandoci in questa strada, l'abbiamo fatto ieri col professor Perna, di cui poi vi devo dire una cosa, lo facciamo anche oggi col dottor Boffi, mandateci un'email a esserebenessere@radio24.it, scrivete sul nostro profilo Facebook, insieme a Laura Vanossi cattureremo il dottor Boffi e gli sottoporremo le vostre domande, i vostri dubbi, i vostri quesiti, lui darà una risposta e, come abbiamo fatto proprio ieri col professor Perna, confezioneremo una pagina con le vostre domande e le risposte del nostro esperto. A proposito, puntata sugli attacchi di panico, la trovate sulla nostra pagina, sulla pagina del programma Attacchi di panico, cosa fare, ecco i rimedi con le risposte ai vostri dubbi del professor Perna. Ho tante cose da segnalarvi perché, come avete notato, Essere Benessere si sta buttando un po' nel video, in un contatto quotidiano anche con i nostri esperti, dalle ricette che vi invito a rileggere in Mangia con me, a visionare con le ricette di Andrea Ribaldone, al nostro Daily Lab, al video in cui proviamo a seguire delle lezioni di yoga. A proposito, proprio con Susi Stefanini di Yoga and Meditation Training abbiamo eseguito una respirazione, si chiama Kapalabhati, per permettere alle persone che vogliono liberare i polmoni dalle tossine di buttarle fuori. Anche questo può essere un aiuto, anche questo lo trovate a partire da oggi pomeriggio sulla pagina di Essere Benessere. Insomma, datemi un ritorno, cliccate, noi lavoriamo molto contenti e quindi lavoriamo in rete, ci sosteniamo a vicenda. Abbiamo in linea la professoressa Anna Maria Moretti. Buongiorno professoressa. Buongiorno. Professoressa, io vorrei chiudere con lei con un messaggio alle amiche di Essere Benessere, e le donne, lo sappiamo, tendono a fanno più fatica a smettere, ma dobbiamo sapere che siamo più sensibili, vulnerabili agli effetti del fumo, quindi cerchiamo di spegnere la sigaretta, ma nel frattempo prestiamo attenzione ad alcuni segnali che nella donna vengono spesso sottovalutati. Professoressa Moretti. Sicuramente ci sono dei segnali che vengono sottovalutati e sono principalmente la comparsa di affanno, di tosse soprattutto al mattino, di espettorazione, cioè di muco che viene insieme alla tosse. Questi segnali ci devono portare dal medico specialista per valutare che non sia insorta una BPCO. Questa malattia è una malattia precedentemente considerata solo nel sesso maschile, attualmente si incrementa, aumenta nel sesso femminile, quindi le donne devono fare una particolare attenzione. Perché proprio questa abitudine al fumo ha reso più femminili malattie che si pensava originariamente colpissero di prevalenza o quasi esclusivamente gli uomini. Per cui fate attenzione. Grazie professoressa Moretti, direttore dell'unità operativa malattie dell'apparato respiratorio del Policlinico di Bari. Grazie per essere stata con noi. Grazie a voi. Abbiamo Alessandro che ci chiama dalla provincia di Vicenza, 800240024, benvenuto. Benvenuto, buongiorno a tutti i radioascoltatori. Niente, io è da 14 anni che ho smesso di fumare, sì. E mi consideravo un forte fumatore, circa 2-3 pacchetti al giorno. E niente, ho smesso di fumare e non credo assolutamente all'ausilio delle sigarette elettroniche, come è stato parlato questa mattina, perché io ho trovato conforto nello smettere semplicemente riorganizzando la giornata, sì. E dopo un primo momento di dipendenza fisica che inevitabilmente l'uso del tabacco comporta, la dipendenza psicologica è molto pregnante, sì. nella vita di un tabagista, tant'è che la riorganizzazione, come era stato detto questa mattina, per esempio con l'ausilio di libri o altre attività eccetera che possano sostituire i tempi occupati dalla sigaretta è un valido supporto per superare anche questa dipendenza. La sigaretta elettronica, e con questo concludo, la sigaretta elettronica è un procrastinare e un palliativo a quello che è la dipendenza psicologica al fumo. Grazie Alessandro, chiudiamo con il parere del nostro ascoltatore. Dottor Boffi, 10 secondi, una battuta che ci sfumano. Ogni fumatore deve trovare il suo metodo. Questa è la giornata prima della giornata mondiale senza tabacco. Forza che ce la possiamo fare. Forza, ce la faremo. A domani. Essere e benessere.